Riconvocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. 800 24 00 24, ci sono chiari segnali di cedimento della Juventus che non riesce a portare a casa la vittoria di Verona. Vinceva 2-0 alla fine del primo tempo, poi nella ripresa due gol praticamente in fotocopia, uno di Toni e l'altro a pochi secondi dalla fine della partita di Gomez. Dunque 2-2, peccato per il campionato che la Roma non sappia approfittarne. 0-0 nel solito derby di Roma. Ciao Carlo Genta. Ciao Giovanni, buonasera a tutti. Chiarissimi segnali di cedimento della Juventus. Io non so se hai visto la partita, se hai visto il derby, però gli errori sono sempre lì. Sì Giovanni, segnali di cedimento della Juventus, continua a fare degli errori difensivi, però non è una squadra sotto pressione, è inutile star lì, il vantaggio è largo, ci sono degli errori difensivi evidenti e ripetuti, e questo è senz'altro un campanello d'allarme. Però insomma, io non vedo una Juventus sotto pressione. È chiaro, se la Roma avesse vinto il derby oggi... No, ma proprio quello il problema, che la Juventus non sotto pressione sta dimostrando in queste ultime settimane di addormentarsi ogni tanto. Ti faccio sentire subito Conte, che già ai microfoni di Sky Sport. Conte, sentiamolo. Semplice, non avevate subito un tiro in porta, avevate fatto due gol, eccetera. Poi com'è possibile che accada quello che è accaduto nel secondo tempo? Che spiegazione si è dato così a caldo? No, la spiegazione, non ci sono spiegazioni. Continuo a ribadire che le partite durano 95 minuti, che non basta giocare 45 minuti e essere padroni del campo, perché poi basta una disattenzione, veniamo puniti un'altra volta su un calcio da fermo, due volte su un calcio da fermo. Alle disattenzioni diventa difficile porre rimedio. Dico che dovremmo essere molto molto più attenti, altrimenti rischiamo di vanificare tutto quello che di buono abbiamo fatto. Ecco, c'è da dire che quello che spesso, almeno da parte mia, poi non so se è d'accordo, quello che spesso abbiamo sottolineato essere uno dei punti di forza straordinari di questa Juventus, cioè il centrocampo, oggi in alcuni uomini, e io cito Vidal e Pogba, soprattutto in fase di non possesso, sono andati davvero in difficoltà. Sicuramente si poteva fare molto molto meglio, ma ripeto, non... Bisogna così lasciare perplessi il fatto che sei padrone del gioco per 45 minuti, poi basta una cosa che già, ripeto, già in parte era accaduta un po' con l'Inter, no? Perché per 65-70 minuti abbiamo dominato la partita, è bastato prendere un gol e siamo andati un po' nel panico, nell'ansia. Se avete 10 euro da scommettere, scommetteteli sul fatto che non sarà una settimana tenera a Vinovo. Carlo, hai 10 euro? No, non ce li ho, ma comunque li scommetterei anche io. Fateli prestare, scommetteli su questa accoppiata, però la settimana poco tenera a Vinovo, e che si parlerà molto della coppia Doveri-Stallone, sì. Arbitro, sì. E assistente. La prima pagina, Carlo, poi torniamo. Prima pagina. Difficile che questa notte Antonio Conte prenda sonno, poteva aver messo in ghiaccio il campionato e ha buttato via il primo match point. Doppietta di Tevez, polemiche assortite, poi Toni, Juan Ignacio Gomez, l'uomo che ha tenuto in vita il campionato. Il cross di Romulo, il pareggio di Juanito Gomez, il Verona agguanta la Juve. E chissà se Garcia prenderà sonno adesso che ha visto scivolare via la chance per avvicinarsi alla Juventus. I derby non si giocano ma si vincono, aveva detto. Niente da fare, Juve 60 punti, Roma 51. Intanto arriva la notizia del pari del Verona sulla Juve. Attacca la Roma, l'ultima azione della partita, non c'è più tempo. Game over all'Olimpico, finisce 0-0 tra Lazio e Roma. Per tenere in vita il campionato serve quasi un atto di fede, ma ci sono ancora 15 giornate, 45 punti, almeno sul calendario ci si può aggrappare, oltre che sugli errori della Juventus. In questa domenica di calcio invece non resta molto. Dopo cena misureremo la prima Inter di Hernanes, che dovrebbe avere più qualità in campo, ma deve soprattutto uscire dalla crisi in cui è precipitata, profonda, anche per Mazzarri. Come mi è capitato in altri momenti da altre parti, conta più il risultato di ogni altra cosa, ma non tanto perché... proprio la classifica si guarda fino in fondo quest'anno, come ha parlato anche il nostro presidente, perché soprattutto per i giocatori che devono essere più liberi, più tranquilli di giocare come facevano prima. E tra un'ora sapremo se Zögerler sarà volato col suo slittino sul sesto podio olimpico di una carriera strepitosa. Questa mattina ci siamo svegliati così, con addosso l'argento vivo di un fenomeno che, quando conta, non sbaglia mai. Ah! Yes! Yes! Yeah! Tutti convocati. Sai, più sulle motivazioni, bisogna... no? Certo. Sai, le motivazioni devono essere sempre a mille, perché sappiamo che se noi non abbiamo motivazione a mille può succedere di tutto, come è successo oggi. Esatto. Quindi non è che c'è poco da scappare, ecco. Quindi l'attenzione, la determinazione, le motivazioni devono essere sempre a mille, altrimenti può capitare quello che è successo oggi, in parte è successo anche con l'Inter negli ultimi 20 minuti. Hai presente, Carlo, la faccia e gli occhi di Conte dopo il 4-2 a Firenze, tre mesi fa, sì, credo. Gli stessi occhi. Lo sto guardando anch'io, però insomma, con 9 punti virtuali, anche se virtuali, di vantaggio. Secondo me questi errori, queste smagliature della Juventus non faranno altro che aiutarlo a tenere alta la pressione della squadra, a correggere gli errori, a tenere tutti sotto tensione. Sì, lo so, tu continui a pensare che questa Juventus sia alla lunga imbattibile. Io ti dico che intanto i punti non sono 9, potrebbero essere 6. Roma-Parma non è un ostacolo insuperabile, si gioca a marzo. Poi io metto in fila le ultime partite, noi ne abbiamo già parlato, troppi gol presi, troppe volte il portiere è il migliore in campo. Oggi Buffon ha tirato fuori un pallone praticamente in porta, perché la Roma, la verità, la Juventus, la verità è che stava soffrendo anche prima, 8-0-0-24 anche prima di prendere quel gol in fotocopia. A me semmai ha deluso un po' anche la Roma, perché non è riuscita ad andare oltre il solito derby. Garcia l'aveva preparata cercando di togliere ogni aspetto emotivo a questa partita, perché sul campo questa Roma deve essere più forte della Lazio. Evidentemente non c'è riuscito nemmeno lui. Beh, ma certo, ma la Roma ha evidentemente anche pagato la partita con il Napoli, perché la Roma non fa grande turnover, Garcia non fa grande turnover, secondo me fa benissimo. Gioca con i titolari, ha giocato con i titolari con il Napoli, al di là delle battute che si possono fare, comunque ha pagato quella partita, e oggi non è stata brillante, ha subito la pressione del derby, che a Roma conta come al solito più del necessario, però... Insomma, la Juventus non mi sembra sotto pressione. È vero, virtualmente possono essere 3 in meno con la partita con il Parma, poi vediamo. Però quella partita sarà ad aprile, tra molto tempo, eccetera. Secondo me contano anche questi mind games, no? La Juventus al momento ha 9 punti di vantaggio sulla seconda, ha pareggiato a Verona. I problemi che evidentemente la Juventus ha fanno il gioco di Conte nel poter tenere la squadra sotto pressione, nel poter trovare delle motivazioni per spremerli ulteriormente, per tenere ancora di più sotto pressione. Insomma, non la vedo attaccabile. No, invece secondo me attaccabile lo è. Certo che oggi la Roma ha sprecato un'occasione. 8-0-0-24, ci sono già Luca da Torino, Gianni da Parma, scrivono gli amici invece via SMS al 349-238-6666. Adesso Conte lo vogliamo vedere quando ripartiranno le coppe. Il venerdì mattina dovrà tornare a casa da Trebisonda. Oppure ancora, diciamo che la Roma ha passato indenne il derby, invece la Juve è più vicina, cotta, e devono ancora arrivare le coppe. Oppure ancora, se la Juve è in crisi, cosa si può dire del Milan? C'è anche su Twitter chi ci chiede se abbiamo visto un film di Bombolo invece della partita della Juventus. A me, ripeto, il secondo tempo della Juventus non è piaciuto per nulla, al di là dei due gol fotocopia che hanno fatto imbestialire Conte. Traffico. Un derby non si gioca, un derby si vince. Tutti convocati. 8-0-0-24-0-0-24, sta per arrivare Garcia ai microfoni di Sky Sport. Luca da Torino. Luca, buon pomeriggio. Sì, buonasera. Prego. Io sto vedendo un campionato che è allucinante, perché non c'è regolarità. Ci sono due proprietà, una a Milano e una a Torino, che hanno preso fondi, non si sa in quale maniera lecita, dallo Stato, che poi si è visto che non erano. Quali fondi? Mi consenta, Luca, scusi, quali fondi? E poi parliamo. Sì. Prego? Quali fondi? Non ho capito a cosa si riferisce. I fondi di queste due squadre. squadre, una di Torino e una di Milano, sì, sono fondi statali illeciti. Ah, sì? E parliamo di fair play quando abbiamo, se ce ne fa, dice indebitate cosa? Questi si permettono di chiudere gli stabilimenti per fare gli stadi, comprare giocatori. Quell'altra squadra, quell'altra proprietà di Milano, il presidente non si capisce come abbia fatto tutti questi soldi. Sì, mi sembra Luca, a parte che sta mischiando discorsi che insieme non stanno, mi sembra che legare la politica della Fiat alle scelte della Juventus sia roba vecchia, almeno di 30 anni, anni 80, lì forse c'erano anche operazioni di mercato che venivano fatte o bloccate a seconda del momento della Fiat. Restiamo sul campo, dai, Gianni da Parma in attesa di Rudy Garcia. Gianni. Sì, salve, buonasera. Prego. Niente, per quanto riguarda la Juve, io sono convinto che la Juve, se non crolla per motivi inesplicabili, dovrebbe vincere lo scudetto. Il primo tempo è stato fantastico, il problema che mi pongo è per l'anno prossimo, cioè se Conte rimane, se Pogba rimane, se Vidal rimane, la filosofia generale della squadra, mantenere questi giocatori di fronte alle sirene. Basta. Ma credo sarà difficilissimo, credo che Conte e Pogba resteranno, credo che qualcuno partirà, l'indiziato potrebbe essere Marchisio, si è scritto anche in questa settimana, ma del resto io credo sia anche fisiologico che la Juventus poi scelga di finanziarsi il mercato con una cessione pesante. Carlo, sei lì? Sì, presente. C'è Garcia, sì, sentiamo Garcia, Sky Sport. Sentiamolo. Abbiamo fatto una partita seria, questo sì, dopo... Per vincere le partite bisogna essere migliore nell'ultimo passaggio o forse nel penultimo passaggio. È questo che ha mancato questa sera, ma è un punto fuori casa e abbiamo visto che non bisogna solo attaccare, bisogna essere anche più determinato davanti alla porta, penso, come questa occasione di Miralem Pjanic che vediamo adesso, che se la gioca di prima forse fa meglio. Sì, forse fa meglio, invece la giocata di seconda, un po' come in seconda ha giocato questo derby tutta la Roma. Prima di salutarti, Carlo, ti faccio sentire qualcosa ieri sera intorno alle 22:30. C'è Balotelli, credo, con un giubbotto tra le mani sulla faccia dopo la sostituzione. La natura è ancora su Balotelli e a me sembra stesse piangendo. Da che parte stai? Sono tra quelli che lo difendono o tra quelli che dicono è l'ennesima sceneggiata di un giocatore che incide sempre meno sul Milan? Ma tra quelli a cui non importa niente. Non è vero, Carlo, non è vero che domani ci farai mezza trasmissione. Sulle lacrime di Balotelli. Ma secondo me è il più forte giocatore del calcio italiano. Ieri ha fatto schifo, ha giocato male, poi che abbia pianto o no, me ne importa poco. Come credo importi poco a Seedorf, gli ha giocato una pessima partita e il Milan ha perso perché è il giocatore che dà, secondo me, la misura di questa squadra. Sì, io trovo insopportabile che si sposti il discorso, si parli di tutto tranne che della sua scarsa sussistenza in questo momento in campo, perché basta dare un'occhiata alle pagelle di queste prime 23 giornate, quelle che il signor Balotelli ha giocato, perché poi è rimasto anche fuori. 800 24 00 24. Ciao caro, domani. Ciao Giovanni. Ciao a domani, tutti. Carlo, c'è ancora. Ciao. Garcia ai microfoni di Sky Sport. Direi da Luca Marchegiani e poi Gianluca. C'è la domanda di Luca Marchegiani, allora noi andiamo dal nostro Giancarlo Padovan. Ciao Giancarlo. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a te. Io vedo segnali evidenti di cedimento della Juventus, che non significa che perderà lo scudetto, perché dietro, e l'ho detto, la Roma non ha colto l'attimo, però ci sono segnali che questa Juventus non è quella di un mese fa. Ci sono questi segnali e continua a verificarsi un problema dal punto di vista difensivo, cioè la Juventus continua a prendere gol su palle inattive o su palloni alti che arrivano lateralmente, vuol dire che c'è un problema strutturale che riguarda non solo i difensori ma anche i centrocampisti. Sì, io ho provato a mettere in fila, ha preso gol di testa da Piniglia a Cagliari, poi un miracolo di Buffon, il miracolo di Storari a Roma contro Klose, il gol di Gabbiadini, il secondo gol della Samp a Torino, l'occasione di Palacio che rischiava di riaprire la partita settimana scorsa, oggi i gol di Toni e Gomez praticamente in fotocopia e poi un altro miracolo sempre su palla inattiva. Mi chiedo perché Conte non riesca a correggere questo errore. Conte che ha tempo in questo periodo, lavora in settimana, è molto attento, puntiglioso, l'ho visto prima molto arrabbiato, io non so cosa potrà raccontare domani per convincere i difensori a una maggiore attenzione. Non lo so, so solo che da questo punto di vista il deficit è anche suo, perché da settimane che sento dire in post partita della Juventus dobbiamo stare più attenti sulle palle inattive o sulle palle alte, ma invariabilmente, come tu stesso hai ricordato, la Juve prende questi gol. E poi oggi, nella seconda parte del secondo tempo, è diventata veramente una squadra provinciale che si difendeva con paura, arretrava, concedendo campo al Verona, e questo secondo me non è un atteggiamento da grande squadra. Questo è l'altro grande segnale preoccupante, l'ha detto anche Marotta prima della partita: se noi stacchiamo con la tensione, con i nervi, abbiamo dei problemi. Si era già visto negli ultimi 15-20 minuti contro l'Inter settimana scorsa, di una partita peraltro stradominata. Secondo me oggi il pareggio, Giancarlo, è la fotografia esatta. Poi ti chiedo un voto alla coppia Doveri-Stallone, perché io ho perso il conto degli episodi da Moviola di Verona-Juventus, poi magari proviamo anche a metterli tutti in fila, Giancarlo. Sì. Ma il voto, sai, è insufficiente decisamente, perché c'è un gol e mezzo della Juventus nel quale c'è fuori gioco. Uno, secondo me, il secondo gol di Tevez, il secondo gol è fuori gioco. Secondo me il primo è buono, perché comunque Llorente è in quel famoso cono visivo. Però interferisce secondo me nell'azione Llorente interferisce nell'azione. Comunque si può stare giù. Poi c'è un errore anche su Toni. Su Toni il gol dell'1-1, del 2-1, sì, che potrebbe avere anche se lì non si è capito benissimo, un ginocchio in fuorigioco. Poi io mi sono segnato, però credo di aver perso qualcosa, Giancarlo. No, poi c'è il fallo di mano di Lichtsteiner. C'è un mancato rosso a Marquez del Verona per un intervento su Vidal. Insomma, non una domenica brillantissima. Del resto Doveri è un arbitro mediocre, quindi non mi sorprende. Sì, tra l'altro credo che in settimana sentiremo la solita uscita di Nicky e Braschi sul fatto che si sbagliano un paio di fuorigioco su 200. Credo che almeno questa settimana siamo andati sopra come media. Stai lì, Giancarlo. Claudio da Vicenza. Claudio. Sì, buonasera. Claudio da Vicenza. Prego. Tifoso dell'Hellas. A parte che lei mi sembra filo juventino. Assolutamente filo juventino. Lei è filo juventino. Ma non c'è dubbio. Ah, si sente, perché ha visto solo quello che l'arbitro ha sbagliato contro il Verona. Sì. Cioè, a favore del Verona. Ma se ho appena detto che il gol di Tevez è da annullare. Due rigori. Il cartellino rosso. Sì, se lo vado a vedere bene sulla Moviola. Secondo me ce ne può essere uno, quello di Lichtsteiner al 90esimo, fallo di mano. L'altro di Caceres non lo è. Il terzo lo lasciamo passare. Sì. Due sono sicuri. Mi sembra che, pensavo guardando questa partita, che fosse ritornato un certo personaggio a Torino. Sì, faccia il nome però. L'arbitro, si chiama Luciano Moggi, quindi vuole che le dica anche il numero di scarpe? No, però almeno l'ha detta tutta. Secondo me Moggi non è tornato, secondo me Doveri, sembrava fosse tornato. Stallone, perché poi in realtà sui fuorigioco tutti dalla stessa parte, Giancarlo aiutami, credo che la responsabilità dell'arbitro sia davvero residuale, anche perché secondo me due sono in fuorigioco, due su tre, ma stiamo comunque parlando di fuorigioco di 20-30 centimetri, quindi diciamo difficili, certamente impossibili da cogliere per un arbitro, Giancarlo. No, secondo il mio punto di vista il fallo che l'arbitro non ha sanzionato è il fallo di mano di Lichtsteiner. Sì, al 90esimo. Ha le braccia aperte, è vero che non vede la palla, ma come dire, fa ampiezza sulla sua figura, e quindi secondo me quello era fallo di rigore per il Verona. Marco da Macerata, Marco. Buonasera, senta, io volevo fare un'osservazione. Visto che quest'anno tutti i punti che la Juventus ha perso sono stati persi per colpa dei difensori. Sì. Siamo usciti dalla Coppa forse per colpa dei difensori, abbiamo preso gol per colpa dei difensori, ma visto che avevamo già 6 punti, perché non siamo andati a comprare un paio di difensori buoni? Oh, questa è una domanda che mi piace, Giancarlo. È una domanda molto intelligente che io condivido. Perché non siamo andati a comprare i difensori, dice Marco? Perché evidentemente la dirigenza o Conte hanno sbagliato i conti, cioè 6 attaccanti sono troppi, tre o quattro difensori, tra cui Ogbonna, sono pochi, cinque se mettiamo Caceres, e soprattutto non sono del livello di Barzagli, Bonucci oggi malino, e di Chiellini. Ogni volta che esce Chiellini è un problema. Quindi secondo me la dirigenza ha sbagliato a fare questo tipo di operazione e ne sta pagando alcune conseguenze. Sì, secondo me se tu paghi 15 milioni o poco meno quanto è stato pagato Ogbonna, significa anche il metro della difficoltà però a trovare sul mercato un giocatore che possa entrare nella difesa della Juventus. Detto che, lo ricordo sommessamente, che secondo me un campanello d'allarme dovrebbe suonare anche per la nazionale, perché quella difesa lì è quella che ci portiamo poi a giugno al mondiale. Poi avete sentito prima Conte dire che Vidal e Pogba oggi in fase di copertura non hanno giocato benissimo. 800 24 00 24, la sintesi di tutto questo è che secondo me il campionato non è finito. Grazie Giancarlo Padovan. Grazie a te, sono d'accordo. Ciao, un saluto a tutti i radioascoltatori. A te, ci fermiamo. È inutile ci giriamo intorno e dire che io vedo i fantasmi. Iniziate a non dire fesserie. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Tutti convocati. Che internamente a qualcuno della Roma. E ho fatto, penso, il mio dovere. Poi oltretutto io c'ho un curriculum, ma non solo fatto di numeri ma anche di comportamenti. Mi sembra che si sia un po' esagerato, e chiudo qui la polemica, mi sembra che sia andato un po' oltre, ma il derby comporta anche questo. Non era mia intenzione assolutamente fare delle battute di quel genere. Ilaria. Questa è la risposta di Edi Reia, visibilmente soddisfatto per lo 0-0 tra Lazio e Roma. La risposta a quelle parole di Garcia, che ieri ha detto: è brutto che un allenatore auguri gli infortuni a giocatori della squadra avversaria solo perché siamo nella settimana del derby. Bisognerebbe ricordarsi che noi siamo anche educatori. E poi magari nel chiuso dello spogliatoio si dice di spaccare la gamba all'avversario, parole a me sono sembrate fuori luogo. Intanto scrive Alessandro da Prato: sto lavorando. Cosa sta facendo la nazionale di rugby in Francia? Sta perdendo 30-3, minuto numero 68, quindi siamo a poco più di 10 minuti dalla fine e siamo alla solita sconfitta della nostra nazionale di rugby. Dovrebbe essere la numero 59 nella storia del Sei Nazioni. Io sottoscrivo parola per parola quello che dice Carlo Genta. Una nazionale che perde sempre ha stufato di essere una bella immagine per il nostro sport, per questo sport strepitoso, bellissimo che è il rugby, ma non si può in 15 anni vincere 11 volte, perdere praticamente sempre. C'è ancora Reia, c'è Fernando dalla provincia di Reggio Emilia. Intanto però saluto Franco Tancredi. Buonasera Franco. Buonasera a tutti. Che abbiamo convocato per parlare di questo derby. Sentiamo prima Fernando dalla provincia di Reggio Emilia. Fernando. Sì, buonasera. Buonasera. Buonasera. Prego. Stavo pensando quanto sia curioso e bello alla fine il mondo del calcio, perché il signore dell'Ellas poco fa mi rimproverava tra virgolette di essere tipo Juventino. Sì. Io invece pensavo che da qui al termine della trasmissione probabilmente, detto in maniera molto simpatica, i punti di differenza tra Roma e Juventus secondo lei saranno zero, ma no, sono nove, potenzialmente sei, il che rende impossibile definire chiuso questo campionato. Però prego Fernando. No, ma questa, ripeto, era una curiosità, ecco, che a cui sono stato indotto dalle osservazioni del signore. Sì. Davvero. Un paio di considerazioni. Sì, veloce che ci ascolta Franco Tancredi. Sì. Nessuno, che saluto, grandissimo portiere della Roma, avversario della mia Juventus, quella degli anni 80. Prego Fernando. Sì, dicevo, allora, nessuno ha parlato per ora del Verona, che ha meriti grandissimi, nonostante io non abbia visto la partita, ma parlo della storia di questo campionato. E poi la difesa della Juventus non è imbattibile, altrimenti non si sarebbe usciti contro il Galatasaray, e quindi ogni tanto si comporta come nei due anni di settimo posto. Chiudo dicendo soltanto questo, un suggerimento: parlare un po' meno di Moviola, altrimenti sempre quel signore da Verona che magari avrà 50 e 60 anni. Ma oggi è difficile però Fernando. Grazie Fernando, però oggi è difficile. Franco Tancredi, come si prendono così tanti gol in fotocopia? Parliamo della Juventus in questo caso, poi ti chiedo del derby. Sì, effettivamente anche Conte cominciano a essere un po' troppi, anche perché a difesa schierata, insomma, Sì, bisogna guardare la palla, ma bisogna anche dare un'attenzione anche all'uomo, perché sennò io non ho mai visto che la palla va dentro da sola, quindi soprattutto su un cross laterale. È chiaro che era già successo con l'Inter, dove addirittura erano andate anche in affanno, quindi su palle alte con la Sampdoria. Quindi Conte penso che debba lavorare moltissimo sulle palle da fermo. Evidentemente ci sono anche magari dei cali di tensione, pensavano che la partita fosse finita. Sì, credo sia più un problema di calo di tensione, forse, più che un problema di zona, uomo, di come si mette la Juventus in quelle situazioni. Sì, però vedo che i giocatori loro fanno una linea, quindi i giocatori degli avversari riescono a colpire indisturbati, è quello, anche perché ha fatto un miracolo Buffon poco tempo prima del due pari, quindi alle volte magari si cerca più la palla che l'uomo, invece bisogna guardare prima l'uomo e poi la palla, insomma. Io la penso così. È chiaro che i cali di tensione nel nostro campionato non te li puoi permettere, perché se no vieni subito punito. Questa è una caratteristica del campionato italiano. La Roma perché non ha vinto oggi? Problema inverso, cioè che è impossibile a Roma non caricare il derby di eccessiva tensione e quindi i valori si livellano. Ma diciamo che non è stata una gran bella partita, però come dicevi tu c'è stata questa tensione, io l'ho vissuta prima come giocatore e poi come allenatore, quindi so cosa vuol dire. Diciamo che il primo tempo è stata una partita equilibrata, invece al secondo tempo diciamo che la Roma ha messo alle corde la Lazio, che direi insomma gli ha ridato una sua identità soprattutto difensiva. È chiaro che magari ci doveva essere un episodio, perché sono due o tre palle sono passate davanti alla linea di porta e non c'è stato nessuno che l'ha buttata dentro. Diciamo che ai punti la Roma avrebbe senz'altro meritato questa vittoria, però insomma il derby è il derby. Ma questa domenica come va in archivio? Cioè è più un rammarico per Conte secondo te? Conte in fondo a un minuto dalla fine aveva il campionato in mano, chiuso, finito, sigillato, oppure per Garcia che questa sera torna a casa e pensa che in fondo, battendo una squadra di metà classifica, giocando sul proprio terreno di gioco, i punti potenzialmente avrebbero potuto essere 4 di distacco? Sì, chi è che dorme meno questa notte? Secondo me Garcia, perché alla fine sì, può essere come dire rammaricato Conte, però c'è una partita in meno e il distacco è rimasto uguale. Invece Garcia poteva approfittare di questo mezzo passo falso della Juve per accorciare ulteriormente, quindi diciamo che per quanto riguarda chi dormirà meno sarà senz'altro Garcia, purtroppo, perché non è riuscito a approfittare del mezzo passo falso della Juventus. Ti sembra che questa Roma esca dal mercato in qualche modo rinforzata? Oggi si è visto nei minuti finali anche Bastos, Nainggolan ha l'impatto che abbiamo già imparato a conoscere in questo mese di gennaio. Tanti amici anche da casa criticano la scelta della Juventus di prendere una sesta punta, Osvaldo. Ritieni che questo mercato abbia riavvicinato le due squadre? Ma io penso di sì, lo pensavo anche prima, perché come ha detto Conte questo è un campionato che si deciderà nelle ultime partite, a meno che non ci sia un crollo verticale da parte di una delle due squadre, ma non mi sembra, visto le ultime partite e viste le partite anche di oggi. Quindi diciamo che la Roma si è rinforzato, perché ha preso Nainggolan, che conosce bene il campionato italiano. Bastos è un giocatore di rilevatura internazionale, ha giocato con il nazionale del Brasile, ha un gran sinistro, poi può ricoprire diversi ruoli, ha giocato nel Lione, insomma secondo me è un campionato ancora tutto aperto ed anche la Roma ci deve credere fino alla fine, perché tra un po' ricomincerà l'Europa League, quindi se non altro ti porta via delle energie sul piano magari non tanto della qualità dell'avversario, ma sì, giocando il giovedì, tornando nella notte o nella prima mattinata di venerdì, insomma potrebbe un pochettino dar fastidio. Quindi, perciò dicevo, allacciandomi al discorso di prima, che chi ha da rammaricarsi è più... Certamente Rudy Garcia. Grazie a Franco Tancredi. Grazie a voi e buon lavoro. Grazie Franco Tancredi, vi faccio sentire, sta per arrivare il momento della salita di Christoph Innerhofer sul secondo gradino del podio, della discesa libera, premiazione in corso in questo momento a Sochi, dove tra qualche minuto tra l'altro tocca ad Armin Zögeler cercare di seguire il sesto podio della sua carriera. Proviamo a sentire i rumori di Sochi. Christoph Innerhofer, ed eccolo qua. Non è stato ribattezzato Innerhofer come ai mondiali quando vinse oro, argento e bronzo, ma Silverhofer. Silverhofer, pensate, sei centesimi, poco meno della lunghezza di uno sci, però per quattro ha salvato la medaglia d'argento. 8-0-0-24, poi parleremo con un mostro della velocità di quello che ha fatto questa mattina Innerhofer. A proposito di Moviola, se volete, vi leggo quella che ha twittato Lorenzo Fontani, che è esperto di questioni regolamentari di Sky. 23esima giornata con fuorigioco a volontà, buono il primo gol della Juventus, non il secondo, annullato giustamente il gol di Gervinho della Roma, non giustamente quello del Cagliari di Sau, poi si è fermato perché erano davvero troppo gli episodi di Verona-Juventus. Maurizio da Latina, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, dottor Capuano. Prego. Io sono tifoso del Milan e come tale sono molto molto arrabbiato. Diciamo che vedere una squadra come quella di ieri, con Robinho che è un giocatore, un ex giocatore inesistente, un ex S che non ne piglia una squadra messa in campo in maniera sconclusionata, e la dirigenza, la proprietà, quando cose del genere accadevano con Allegri era pronta a criticarla dopo un minuto, non hanno detto una parola. Perché? Perché Seedorf è l'unto del Signore. Guarda, adesso dico una cosa dissacrante, ma la penso per davvero. Io penso che in questo momento, dopo avergli detto grazie, mille grazie, un milione di grazie, Berlusconi dovrebbe farsi da parte e lasciare a chi per davvero vuol fare qualcosa. Sì, bisogna capire a chi, Maurizio, bisogna capire a chi. Maurizio, bisogna capire a chi, perché mi sembra che quello che sta avvenendo, quello che è avvenuto in questi mesi sull'altra sponda del Naviglio a Milano con Toir, certifichi in maniera chiara le difficoltà oggi per squadre italiane a trovare qualcuno che poi investa davvero tanti soldi nel calcio. All'Inter non sta succedendo, dubito che possa accadere al Milan, però sa cosa le dico, Maurizio? Secondo me Seedorf non ha colpe, così come non aveva meriti nei 7 punti nelle prime 3 partite, dove c'è stata anche una certa dose di fortuna, però avremo tempo per parlarne. Dopo le 18 arriva Pierluigi Pardo, quindi se volete prenotarvi 800 24 00 24, e parliamo anche di quella sceneggiata delle lacrime di Balotelli che io trovo insopportabili. Paolo da Prato, Paolo. Sì, buonasera. Prego. Volevo insomma esprimere la mia opinione sulla Juventus, di cui sono tifoso, per dire che insomma io non vedo una squadra con problemi, sinceramente. L'unico, diciamo, pelo nell'uovo è questo problema dei calci piazzati, dove in effetti prende molti gol. Però a me sembra una squadra che va veramente vicino alla perfezione per come gioca. Poi ci può stare nel secondo tempo di Verona contro un'ottima squadra come Verona di subire un po' il ritorno della squadra. Però insomma direi che comunque la Juventus è una squadra da ammirare sotto tutti i punti di vista, non vedo problemi. Sì, la Juventus è da ammirare, su questo non ha dubbi, però lei mi deve dire come si fa a parlare di perfezione. Io l'elenco ve l'ho fatto prima, con la Lazio il miracolo di Storari su Klose, con il Cagliari un gol e un miracolo di Buffon, con la Sampdoria un gol di Gabbiadini, con l'Inter quell'occasione di Palacio che avrebbe potuto riaprire la partita. Oggi onestamente un disastro, 2 gol presi in fotocopia, lasciamo stare il fuorigioco di qualche centimetro, poi un altro miracolo di Buffon. Secondo me questi sono problemi che rischiano di essere strutturali. C'è Lotito ai microfoni di Sky. Lotito. Quello poi che è accaduto. Cioè, rammaricato, presidente. Ma non è rammaricato. Diciamo, abbiamo avuto delle opportunità, non le abbiamo sfruttate. Poi se uno fa un dare a avere nell'economia della partita, poi alla fine il pareggio mi sembra la soluzione più giusta. Okay. Questo è, ma non è che siamo partiti svantaggiati. Questo ci tengo a chiarirlo, perché non mi sembra che la Lazio, al di là del possesso palla che era funzionale anche all'assetto tattico, il mister aveva adottato, perché era quello delle ripartenze, e come tale infatti noi abbiamo avuto l'opportunità proprio su 3 ripartenze, è stata una scelta tecnica proprio per poter, come dire, chiaro, mettere chiaro la squadra in quella maniera. Quindi all'esterno poteva sembrare sicuramente che noi fossimo soccombenti, ma in realtà non è stato così. Il pareggio si poteva accettare se la Juventus fosse stata sotto di 2 reti e avesse recuperato, così ha buttato via 2 punti. Mauro da Venezia, lo ha scritto al 349-238-6666. Poi c'è chi dice Garcia è semplicemente un grande. Io sottoscrivo, però quelle parole lì su Reyes mi sono parse esagerate. Siete ridicoli nelle disamine delle partite, siete faziosi filo interisti. Faziosi filo interisti, Fabio su Twitter, chiocciola tutti convocati. Tutti convocati. Lasciate perdere che una bella partita di Carling è molto più interessante di una partita fatta da buffoni. Carling no, però oggi non si può non aprire una finestra su tutto ciò che succede al di fuori dei campi di calcio, anche se ve lo ricordo, poi torniamo a parlare, c'è chi scrive ad esempio Seedorf non ha colpa, però Allegri era più forte, teneva insieme con mestiere una squadra scarsa, ha ragione, Seedorf non ha nessuna colpa e nessun merito, lo ripeto, nessun merito. 800 24 00 24. Allora andiamo prima a Sochi, Maria Pia, ciao Maria Pia. Ciao, buonasera a tutti. Stiamo aspettando Armin Zögler, quanto manca? Stiamo aspettando Armin Zögler che scenda, io sono qui al momento a Casa Italia e stiamo aspettando Neroffer che verrà premiato tra pochissimo per la prima medaglia italiana. Sì, l'abbiamo visto bello sorridente, credo sia questione di minuti per lo slittino, è ovviamente in corso la quarta manche, Zögler è terzo, dopo la terza manche credo non ci siano speranze di salire sui due gradini più alti del podio, ma sarebbe comunque un risultato straordinario. Sì, sì, tra l'altro come si è vinto anche dalle due manche di ieri, proprio Locke, il tedesco e il russo non sono arrivabili, quindi probabilmente neanche nella quarta manche cambierà molto. Speriamo di riuscire a tenere dietro il quarto in piazza e di guadagnarsi così un'altra medaglia. E speriamo di riuscire a raccontare magari in diretta la discesa di Armin Zögler. Intanto sta scendendo Bruno Banani, che è uno dei personaggi di questa Olimpiade, l'uomo che si è cambiato il nome per fare da sponsor a una marca di non mi ricordo che cosa. Andiamo a Parigi, Flavia Carletti. Ciao Flavia. Tutti. In questo momento l'arbitro ha fischiato la fine della partita tra Francia e Italia, persa dall'Italia per 30-10. Diciamo che il problema forse è stato l'inizio della ripresa, in cui l'Italia ha avuto una sorta di blackout, ha incassato alcune mezze francesi che hanno permesso ai padroni di casa di allungare il vantaggio dopo che la partita il primo tempo si era chiuso sul 9-3, mostrando un deciso equilibrio tra le due formazioni. Sì, diciamo che i francesi avevano un po' il dente avvelenato dopo la sconfitta dell'anno scorso. Questa mattina su un giornale francese c'era scritto niente scherzi, mi pare che abbiano preso questa partita con il piglio di chi non vuole concedere nulla ad avversari che sono tatticamente e tecnicamente inferiori. Sì, esattamente, la Francia l'anno scorso nella partita che si è giocata a Roma per il Sei Nazioni 2013 è uscita dall'Olimpico con una sconfitta che aveva bruciato molte francesi, tanto che l'equipe aveva titolato Martiri di Roma proprio per sottolineare la prestazione deludente dei francesi. Quest'anno con la partita a Parigi i francesi volevano sicuramente la rivincita, ma in più anche alla luce dei risultati delle altre partite del Sei Nazioni, la Francia in qualche modo ha visto la possibilità di poter rimanere agganciata all'Irlanda per poter ancora aspirare al titolo finale, quindi probabilmente anche i risultati di ieri hanno dato una spinta ulteriore ai padroni di casa, che hanno mostrato in alcuni frangenti chiave della partita di avere comunque una marcia in più, nonostante secondo me lo svantaggio di 20 punti tra le due squadre non è esattamente quello che noi abbiamo visto qui allo stadio, diciamo che la distanza è stata più ridotta, però proprio in alcuni momenti chiave i francesi hanno dimostrato di essere un po' più cinici e forse lì c'è la differenza ancora tra l'Italia e alcune grandi squadre. Sì, anche se mi auguro, Flavia, che ci risparmieremo la retorica sulla sconfitta onorevole. Io sono della linea di Carlo Genta, so che tu non sei d'accordo, vi leggo lo score dell'Italia a Sei Nazioni, 11 vittorie, un pareggio, 59 sconfitte, scrive un amico, Francia contro Italia, oggi ho spento la televisione, ha ragione Carlo Genta, un altro amico, una squadra che perde sempre è una squadra scarsa, punto e basta, al di là poi delle operazioni di marketing e della simpatia e anche della spettacolarità di questo sport, siamo stufi di queste sconfitte onorevoli in cui si fa fatica a trovare un passo avanti, Flavia. No, allora, sicuramente nel perdere sempre non c'è nulla di onorevole. La differenza che secondo me si è vista negli ultimi anni, in alcune, soprattutto adesso con questo nuovo, con l'allenatore francese Brunel, è lo spirito con cui spesso l'Italia entra in campo. L'Italia, almeno nella partita presente di sabato scorso col Galles, aveva dimostrato di potersela giocare alla pari anche con una squadra che sulla carta viene considerata da sempre più forte. Oggi ancora con la Francia l'Italia poteva giocarsela, tanto che il primo tempo è finito con 9-3 e la differenza l'hanno fatta i calci, perché purtroppo l'Italia continua a non trovare un calciatore a livello internazionale che possa essere considerato alla pari con gli altri numeri 9 o numeri 10. E questo ci impedisce magari di raccogliere certe occasioni che ci vengono lasciate. Flavia, ti saluto, grazie. Grazie a Flavia Carletti da Parigi. Maria Pia, resta lì, vi faccio sentire Mandorlini che sta parlando, Sky. Dato il pareggio finale. L'episodio si riferisce soprattutto al finale con quel fallo di mano di Lick Steiner. Sì, Lick Steiner, prima Vidal, diverse situazioni, non so, anche il secondo gol loro, però ripeto, ormai conta poco, credo che fosse importante lo spirito, il modo di giocare in un'altra partita, e così abbiamo fatto nel secondo tempo e abbiamo giocato quasi sempre soltanto noi, con una squadra che insomma sta dominando da due anni in Italia, quindi ci rende molto orgogliosi, perché ci mancava un po' una partita con una squadra importante, anche con le altre squadre non siamo mai riusciti a tenerla in piedi fino alla fine, oggi ci siamo riusciti e ci siamo meritati questo risultato. Vi dirò la verità, sto rivedendo il presunto fallo di mano di Lick Steiner e non sono più così sicuro che sia calcio di rigore, girato di spalle a contatto con Toni, palla che scivola sul braccio, non lo so. 800 24 00 24, Maurizio da Milano. Maurizio, buonasera. Prego. Sì, io sono milanista, ho un po' di cose da dire, me le faccio dire. Dai, sì, però le do al massimo un minuto, però, perché poi siamo in chiusura. Prego. Una domanda finale per lei. Allora, io è una vita che sono milanista e non mi sono mai piaciuti calcisticamente parlando, no? Galliani e Berlusconi, secondo me, e sicuramente per lei è il contrario, non capisco niente di pallone. Allora, sì. La colpa non è né di Allegri e né di Sedo, perché lì del Milan ci sarebbero a uno o due massimo da Milan, secondo me. Sì, anche meno. Anche Vecchio, che dicono che è forte, ma a me non mi piace assolutamente. L'uomo gli va sempre via, in fase difensiva. Allora, domanda finale per lei. Prego. Io sono milanista, non sono detto d'accordo con i milanisti. Tutti i giocatori che mi piacevano a me finivano all'interno. Va bene, domanda finale per lei. Se avesse 50 milioni e fosse proprietario di una squadra, li darebbe in mano per farsi costruire una squadra a Galliani e Berlusconi o a Moggi? Li darei in mano a Galliani tutta la vita, para al palmarès. Dopodiché Moggi era un ottimo dirigente sportivo, e se volete rispondere voi 800 24 00 24. Maria Pia, quanto manca a Darmin? A Darmin Zoglia manca ancora un pochino. Adesso manca ancora un po'. Allora, Maria Pia, se sei d'accordo ci torniamo dopo, perché adesso c'è il notiziario. Siamo ancora alle discese, credo, di quelli che sono intorno alla decima posizione, quindi è ancora lontano il momento di Zoegler. Allora noi ci fermiamo qui. Sta per arrivare Pierluigi Pardo, stiamo per parlare di Balotelli, della settimana dell'Inter. 800 24 00 24. Tutti convocati. Da una lacrima sul viso ho capito molte cose. Dopo tanti e tanti mesi ora so cosa sono per te. Pierluigi, dove sei? Sono qua sotto, quindi fra due minuti salirò, ma intanto sono qui perché oggi sperimentiamo, diciamo, tutte le possibilità di collegamento, il vivo, il multimediale, il telefono, il collegamento poi guardando la San Siro, facciamo di tutto di più. Sì, oggi siamo multitasking, tra l'altro aspettiamo anche di ricollegarci da soci, aspettiamo sempre anche Armin Zoegler, hai tirato fuori il fazzoletto, io trovo insopportabile tutto quello che è successo ieri sera, anche quello che è successo oggi, tutto quello che si è letto, i commenti. Non ne posso più del Balotelli personaggio, Pier. No, lo capisco, anche se è chiaro che ci inzupperemo, lo dico tutto a tutti, è impossibile non inzuppare la propria attenzione sulla vicenda Balotelli dopo queste lacrime. Non farlo significherebbe, insomma, non cogliere un argomento che è divisivo per quanto riguarda gli sportivi italiani, quelli che sono con lui, quelli che non sono con lui, e poi regala di volta in volta colpi di scena. Sì, oggi il Napoli è stato addirittura costretto a un comunicato ufficiale per smentire che Balotelli piangesse per insulti razzisti al San Paolo. Sgombrare il campo dalle, posso dire, diciamo, dalle boiate. No, dillo in italiano come lo stavi dicendo. Lo dico siciliano, dalla menghiata, salutiamo tutti gli amici siciliani. Credo sia veramente importante perché non c'era nulla di tutto questo. Sì, io catalogo tra le minchiate, lo diciamo, anche il tweet del fratello Enoch che ha detto: adesso lasciateli stare, non pubblicherete mica la foto di Balotelli che piange. E come no? Nessuno l'ha pubblicata, ma ha ragione chi l'ha pubblicata. Però Pier. No, l'hanno pubblicata. Chi l'ha pubblicata, ma come fa? No, insomma? Ma posso dire una cosa, io sto diventando. No, sempre più balotelliano, no, non lo so, perché non voglio che la guerra di religione su Balotelli, né da una parte né dall'altra. Però io piango, sono del partito dei lacrimisti, chiaramente piango per motivi banali, cioè mi emoziono mentre vedo i film, la musica, cioè, ho la lacrima abbastanza facile, quindi pur essendo completamente anaffettivo, piango abbastanza a caso. Quindi questa cosa qui, questo sdoganare il fatto che uno non debba piangere, secondo me invece ha avuto un momento di crisi nervosa, di emozione, e l'ha vissuta così, e non c'è niente di male, e non è meno uomo oggi o meno duro o meno, no, meno bad boy, è semplicemente uno che, esattamente come tutte le altre persone, ha delle emozioni, e ieri sì, c'è troppo zucchero, e perché una volta piange, perché su Twitter riconosce la figlia, perché chiede che non se ne parli, e lo fa mandando una lettera in televisione. Tu tra l'altro ieri c'eri, io ieri mi sono alzato, ero a casa, ti confesso, ieri sera mi sono alzato in piedi quando ho sentito l'analisi di Boban dopo la partita su Balotelli, te la faccio sentire mentre sali. Non avrei neanche questo Milan costruito intorno a Balotelli, perché non ha mai dato impressione di essere campione, vabbè, di comportamento lo sappiamo, neanche di calcio che gioca. Cioè Balotelli fa qualche gol a grande tiro, si muove pochissimo, cioè nelle partite grandi di solito manca, poi sia l'Inter sia Manchester City non è riuscito mai a fare grandi cose. Cioè i campioni veri, fuori classe veri, sono altri. Balotelli certamente no, è un giocatore potenzialmente forte, non fuori classe. Per intorno a lui creare una squadra, cercare di creare tutto un progetto è rischiosissimo. Oh, io mi alzo in piedi ancora, Pier. Io sono d'accordo. Non è un fuori classe. Io trovo che. Continuiamo a parlare delle lacrime. Se è uomo o meno uomo, Pier, è o no un giocatore decisivo per questo Milan? Lasciamo stare la nazionale poi a giugno. Beh, insomma, sta dimostrando di non avere ancora la continuità per essere un giocatore sul quale puoi costruire una squadra. Tra l'altro, lo scorso anno, mi ricordo, quando arrivò, la mia opinione è sempre stata quella che noi aspettavamo una stagione intera da protagonista assoluto. Cioè Balotelli ha regalato qualche sprazzo, ha regalato una meravigliosa semifinale europea contro la Germania, che non possiamo cancellare ovviamente, ha giocato alcune partite benissimo, dimostra di avere una castagna, un tiro pazzesco, però non è mai stato e lì si è fermato. Dico, non è mai stato ad oggi un giocatore capace di 20 gol a stagione con una continuità di rendimento che comportamentale di un certo tipo. Questo è il suo limite, non c'è dubbio. Io gli auguro di riuscirci. Ti faccio sentire Seedorf che invece ha scelto la linea, quella della protezione a tutti i costi. Seedorf, no, in suo momento noi siamo in tanti stati giocatori, e ci sono dei momenti che uno esprime le sue emozioni in quella maniera lì, non vedo niente di strano. Non è la prima volta che vedo un giocatore che piange. Traffico, Pier, sali, dai, traffico. Mario ha sbagliato, Mario chiede scusa, però adesso non voglio esagerare a chiedere scusa a tutti quanti, perché non è che ha ammazzato qualcuno, no? Tutti convocati. arrivato, inquietante. È arrivato l'arrutino. Sì. 800 24 00 24. C'è a Milano? Sei a Milano? Come no? C'è l'arrutino? Con quel disco lì? È milanese. No, volevo togliere. Donne, è arrivato l'arrutino. È milanese. Spade, come dice, coltelli, a fila, lame, quella roba là. Tutta quella roba lì. 800 24 00 24. Zögler si fa attendere, come tutti quelli che contano qualcosa, compreso Pierluigi Pardo, che noi avevamo convocato alle 18.05. Lui è di strada per andare a San Siro, Inter Sassuolo questa qualità, sera. Qualità, personalità, stasera partita mica da ridere. Abbiamo tempo di parlarne però. Giorgio da Vercelli, Giorgio. Sono qua. Siamo qui anche buonasera. Noi. Buonasera. Prego. Come va? Condivido in pieno tutto quello, benissimo, grazie. A parte la sconfitta del Milan, insomma, che ci stava, ne avevo preventivati tre, ne abbiamo presi tre. No, io sono d'accordo sul fatto che Balotelli ci ha veramente rotto, nel senso che adesso basta. Io faccio allenatore di pallacanestro da una vita, giocatori come lui ne ho visti tantissimi, tante promesse che poi finiscono per danneggiare poi la squadra. Perché guai, un pezzo dei guai del Milan, forse non so se siete d'accordo con me, sono cominciati quando è arrivato lui. Secondo me non si sono risolti. Sì, ecco, non darei una responsabilità a Balotelli. Diciamo che l'illusione che ci poteva essere stata l'anno scorso con la conquista della Champions, i 12 gol di Balotelli, anche se sei su calcio di rigore, che Balotelli potesse essere l'uomo attorno al quale costruire una squadra vincente, mi sembra che insomma 22-23 giornate dopo si sia tranquillamente, la possiamo considerare una pura illusione. Sì, io poi ti faccio l'elenco dei 4 e mezzo in pagella di questa stagione, poi aggiungiamo le partite saltate per squalifiche. Ieri è arrivato ancora un passo dal cartellino giallo che non credo sia diffidato, però insomma è un vizio che non si toglie. Antonio da Milano, intanto saluto Franco Ordine, ciao Franco. Ciao. Eccomi qua, buon tardo pomeriggio. Come va? Molto bene. Stiamo cercando un difensore di Mario Balotelli, perché siamo indignati. Intanto sentiamo Antonio da Milano. Esatto. No, io sono indignato, io non ne posso più. Di queste sceneggiate. Ma si può piangere. Antonio da Milano. Antonio. Buonasera. Prego. Io condivido. No, però Antonio devi abbassi la radio. Abbassi la radio. Assolutamente. Se no, Antonio. Ce la abbassi il tempo. Sono fregato perché sono in viva voce, mi dovete scusare. Vabbè, vai. No, allora non la scusiamo, tolga il viva voce e poi lo risentiamo. C'è il regista, giustamente, giusto, pulito, giusto, perfetto. Qualità, così. Radio 24, non si può ascoltare, però Antonio, ti richiamiamo subito. Franco, come si fa a difendere Balotelli? Ma da quale punto di vista? No, ma prima di tutto io credo dal punto di vista tecnico e non solo per ieri sera, io lo dico da un po', io non trovo che Balotelli sia un fattore in questo Milan e anche se Pier fa segni un po' così, dico anche che non se ne può più anche delle cose come quelle di ieri sera, insomma. Beh, vabbè, però non se ne può più, mi sembra obiettivamente che tu stia oltrepassando il confine della ragionevolezza, nel senso che invece io devo dire che sono rimasto francamente non soltanto stupito, ma favorevolmente stupito da questa reazione umana di questo ragazzo che il destino ha costretto a essere molto più grande, avere spalle molto più larghe, avere molti più anni di quelli che ha. Invece, come dire, dentro di sé ha conservato, custodito quasi come un piccolo tesoro la sua fragilità emotiva, che ieri è venuta fuori perché avrebbe voluto con tutte le sue forze, probabilmente proprio questo secondo me gli ha procurato una cattiva esibizione, una pessima performance, avrebbe voluto a tutti i costi fare una grande partita, probabilmente aveva già preparato magari una maglietta con dedica alla figlia Pia, e immaginava di dover fare qualcosa di significativo a poche ore diciamo dall'avvenuto annuncio della conquistata paternità. Io trovo che questo sia maledettamente emozionante e maledettamente simpatico. Ma poi posso dire una cosa, io sono uno di quelli che non è mai stato particolarmente tenero nei confronti di Balotelli quando ha fatto cose in campo stupide, che gli sono costate giornate di squalifica, gli sono costate occasioni perse, che non l'hanno fatto sembrare capace di gestire le proprie emozioni. Ma qui, insomma, cioè, scegliamo da che parte stare. Se ci dà fastidio il Balotelli bad boy, poi non è che possiamo, una volta che piange in panchina, è una reazione umana, normale, sì, un po' sopra le righe, ma comunque vera, a meno che non stiamo pensando che abbia fatto finta, e non voglio immaginare. No, però il problema è che sei tu che ti metti, se tu passi una settimana mettendo le tue foto con la capigliatura da guerriero, prendendoti il ruolo di trascinatore, usando questo. Twitter per le tue vicende personali. Allora, posso dirti, mi danno più fastidio le foto da guerriero con la cresta delle lacrime in panchina di ieri. Ha premesso che non mi dà fastidio nessuna delle due cose, ma se proprio devo scegliere, trovo. Scusate, ma proprio questo, e cioè proprio questa preparazione, la nuova capigliatura da guerriero e le foto, erano, come dire, la scansione di quello che intendeva lui, cioè pensare di preparare una serata epica molto particolare che gli servisse proprio come ulteriore contributo e come ulteriore testimonianza della sua nuova condizione, diciamo tra virgolette, privata e personale. Io devo dire che avrei terrore di una persona che non prova emozioni, di una persona con gli occhi di ghiaccio e magari da incontrare di notte in una strada buia e magari anche piena di curve. Io invece, se dovessi incontrare questo Mario Balotelli, devo dire francamente che gli stringerei la mano. Anche perché le ultime tre cose che ha fatto Balotelli sono state il tweet, quello dell'altro giorno, diciamo, di riconoscimento della paternità, la lettera al padre, a parte la lettera della ragazza, voglio dire, per carità, mediatico, quello che volete, però Balotelli due mesi fa una cosa del genere. Ci sono tanti che fanno queste cose, non le fanno, ma sono su d'accordo, Twitter. Cioè, ma i problemi della vita sono altri, ma ci mancherebbe altro, stiamo parlando di un privilegiato strafortunato che guadagna un sacco di soldi, come sono un privilegiato io che faccio un lavoro che mi piace, non guadagno tanto di Balotelli, ne guadagno mille volte in meno, ma è chiaro che i problemi veri della gente sono altri, chi non arriva a fine mese, chi non c'è il lavoro, questo è fuori discussione, è ovvio, e diciamolo, ribadiamolo mille volte, però anche in una carriera di un giocatore fortunato, ricco e delle volte anche un po' stupidotto in certi atteggiamenti e nel non riuscire a controllarsi, si può trovare un momento nel quale esplode dal punto di vista umano e basta, insomma, dobbiamo criticarlo anche perché ha pianto ieri in panchina. Franco, hai un minuto che sentiamo da casa il polso degli amici. Renzo dalla provincia di Carbonia Iglesias. Renzo, buonasera. Prego. Tutta la vita con lei, signor Capuano, e con Boban. Finalmente una persona che tecnicamente, anche lei, No, Boban. Ma sono due piani diversi però, Un conto sono le lacrime e un conto è la tecnica. Tecnicamente io condivido quello che dice Boban, tecnicamente. Balotelli deve diventare un campione, non lo è ancora. Su questo non ci sono dubbi. Però vorrei che non possa piangere... Scusate, ma no, vorrei soltanto distinguere, ma sono in ballo tutte e due le cose. Cioè, primo, ci sono nel mondo almeno 100 giocatori che da anni fanno più 100 punti. Sento il signor Genta, volentieri, sento lei, sento il signor Capuano, che dice che Balotelli è fra i primi 5 attaccanti del mondo. Mai detto, non lo penso, ma mai. Il signor Genta, lei no. Però, a parte questo, ma signori, l'avete vista la partita di Balotelli ieri sera? Ma è un giocatore che si può permettere di stare in campo, sbuffare, mettersi all'angolo e poi fare quella sceneggiata. Hai riconosciuto tua figlia, bravo, ma era un dovere che avresti dovuto fare prima, sono affari tuoi. Questa poi è una vicenda, adesso lasciamo stare di entrare nei dettagli di questa vicenda, Renzo, però mi sembra chiaro, Pasquale da Macerata, Pasquale, guarda che ne abbiamo due o tre, Pierre, perché ovviamente l'argomento Balotelli divide, quindi noi ci pucciamo la brioche, ovvio, come tanti, come tutti. Pasquale? Sì. Prego. Buonasera. Sì. Sarò breve. Sì. Una volta disse Berlusconi, Balotelli ha la squadra migliore, non ce n'era. Sì, la mela marcia. E aveva ragione. Ma non so chi l'abbia portato, però questo è un cretino. Adesso non esageriamo. Pasquale, non esageriamo, Pasquale. Non esageriamo per niente, se per cretino intende immaturo, fare. Possiamo starci. Ogni altra definizione io la fermo, però, Pier. Sì, non è il caso di tenere un giocatore del genere. Ma lasciamo perdere. Io sono un berlusconiano per vivo. Sì. Però sentire Berlusconi è questo, e poi Balotelli mi va al Milan, vuol dire che là comanda Gagliani. Non ci sta niente da fare. Sì, vabbè, lei ha detto che dice che Berlusconi aveva la vista lunga, ci aveva visto lungo. Andrea Davarese, poi sentiamo anche che cosa ne pensa Franco Ordine di questo Milan, soprattutto magari visto l'Atletico Madrid di ieri sera. Franco, Andrea. Sì, buonasera prego. Solo un commento, io condivido assolutamente la sua posizione, così come quella di è un Boban, trionfo, Pierre. Che come al solito si distingue per intelligenza. Solo un appunto però, lei giustamente dice che non se ne può più, però è un quarto d'ora 20 minuti che sta impostando la sua trasmissione su questo tema, quindi non se ne può più davvero che si parli di calcio e si dica quanto Balotelli è inadeguato a giocare in questo Milan, tutto il resto veramente è una cosa di cui non se ne può più. Sì, ma io su una cosa soltanto vorrei capire, non poteva piangere ieri in panchina, cioè quando lui ha pianto lei le ha dato fastidio? Non ha fatto né caldo né freddo. Io ok, vabbè, quindi può piangere in panchina. Certo che può piangere, però non possiamo parlare per 24 ore del fatto che ha pianto. Parliamo del fatto che ha fatto una partita indecente, questo è quello che dico. Sì, io le segnalo che da quando abbiamo cominciato a fare questo argomento la quantità di messaggi che è arrivato, di telefonata, è cresciuta. Per cui questo lo dico, non per, c'è anche chi ci dice che mangiamo grazie a Balotelli. No, mangeremo anche parlando di Parma Catania o di Inter Sassuolo. Cioè non è che Balotelli ci dà lo stipendio. Però se questo tema è così divisivo e comunque sia di pancia scalda l'interesse degli ascoltatori, non è soltanto diciamo un diritto, ma è forse anche un dovere dei media occuparsi, parlarne. Poi mi rendo conto che se ne parla tanto, troppo, e ci sono stati dei momenti che la cosa mi ha veramente anche infastidito. Però insomma sai, il confine fra i media che guaieristicamente si mettono lì ad alimentare delle storie e l'interesse invece sincero delle persone, che quindi in qualche modo viene alimentato dai media, è un confine delle volte molto stretto. Insomma, a me sembra che l'argomento interessi. Mi fai chiedere a Franco Ordine che voto dà al Milan di ieri sera, se il Milan di ieri sera, Franco, era una sorta di prova generale in vista della Champions, quindi al di là delle influenze, un po' più coperto, un po' più accorto, diverso dal primissimo Milan di Seedorf. Ma guarda, io non so che partita tu abbia visto ieri, a me il Milan ha dato una impressione, devo dire, molto inquietante. Intanto perché ho trovato cervellotiche le prime decisioni di Seedorf, poi segno evidente, come dire, conseguenza quasi inevitabile del fatto che la squadra sia stata affidata alle mani di un esordiente, di un debuttante, di uno che non ha, diciamo, ancora in mano tutti gli strumenti per esercitare il suo mestiere con grande lucidità e soprattutto con grande razionalità. Il Milan mi ha dato questa impressione e devo dire che condivido per esempio il giudizio di Boban, secondo il quale ha visto una grandissima confusione. Io non ho mai visto il Milan subire così tanto dal punto di vista numerico dei tiri in porta, me ne segnalano 13, che sono una quantità industriale in una partita di Serie A. Aggiungo che per tornare un attimo al dibattito di prima, noi dobbiamo separare, come diceva la vecchia fortunatissima formula del primo panorama, i fatti dalle opinioni. Allora, noi dobbiamo separare in questo caso il Balotelli privato, diciamo, che ha quella reazione emotiva conseguenza della delusione che lui prova. Vedete come esce dal campo accettando la sostituzione, anzi consapevole di aver in qualche modo tradito il mandato. Anche questo è una prova, secondo me, di maturità, di una come dire, di un cambiamento del giocatore. Poi dobbiamo separare il, diciamo, privato dal tecnico. In materia di tecnica, purtroppo Balotelli non è ancora un giocatore fatto e finito. Balotelli mi ricorda molto la primissima definizione che un grande del calcio, Hernán Crespo, mi diede di Ibrahimovic. Mi disse: questo è un giocatore di strada, nel senso che si portava dietro i limiti e naturalmente anche le grandissime qualità del giocatore allevato in strada e non di quelli cresciuti sui campi di calcio. Balotelli è così. C'è ancora lavoro da farci sopra. Sì, tanto è vero che il suo ex allenatore diceva sempre: tu quando fai, quando metti in campo Balotelli non sai mai che partita ti farà, nonostante tu abbia seguito tutta la settimana, ne abbia curato i dettagli, gli abbia dato le direttive giuste, lo abbia visto in grande condizione, lo abbia visto anche di ottimo umore, ma tu non sai mai cosa ti farà e soprattutto che posizione andrà a prendere e che ruolo eserciterà. Cioè, quando a un certo punto hai bisogno di avertelo in area di rigore, te lo ritrovi magari alla destra e così via. Questo è il Balotelli, che quindi è ancora da questo punto di vista un giocatore da completare. Poi nel giro di un paio d'anni, quando la grande avventura mondiale sarà compiuta e sarà compiuto forse probabilmente la parte più interessante della sua maturazione, decideremo e stabiliremo magari anche se è un campione, un buon giocatore o un fuoriclasse, insomma, quello che sarà stato. Franco, ti devo salutare però perché siamo in pubblicità. Grazie, saluti, Franco Ordine. Ciao. Tutti convocati. 800 24 00 24. Continuate a mettere l'uomo adulto sul giocatore di alto livello. È un ragazzo con i suoi problemi, lasciatelo stare. Lasciamolo stare, no. Ne parliamo, perché no, secondo me è giusto parlarne. Continuiamo ad aspettare Armin Zögler. Edmond da Cremona. Edmond, buonasera. Sì, pronto, buonasera. Prego. Volevo fare anch'io un commento su Balotelli. Sì. Ecco, secondo me il panto di cappello comunque è a Boban. E secondo me Balotelli, con tutto quel gossip che fa, va bene per De Laurentiis a fare qualche film magari. Addirittura, Pier. Non può essere serato. Sì, no, ma è che il fenomeno mediatico superi di gran lunga il campione in questo momento, questo è fuori discussione ed è evidente. Io semplicemente mi sono arrabbiato quando ho sentito dire che ieri, nel momento nel quale ha pianto in panchina, si è lasciato andare per un momento, c'è gente che si è ancora arrabbiata. No, io mi arrabbio quando fa le risse, quando salta delle giornate di campionato perché non riesce a controllare i suoi nervi, quando ha dei comportamenti discutibili. Quello mi fa arrabbiare, più che altro per lui, perché spreca talento, e su questo non ci sono dubbi. Non è un giocatore costante, anche nell'europeo. Alla fine noi ci ricordiamo una grande partita di Balotelli, che è quella con la Germania, ma non so se vi ricordate Italia-Spagna, la prima partita, il gol che si mangia. Va anche in panchina, credo, nella seconda partita contro la Croazia o contro l'Irlanda. No, contro l'Irlanda va in panchina. Insomma, non ha avuto un cammino regolarissimo. Sì, lui cresce dalla partita con l'Inghilterra. Lui cresce dalla partita con l'Inghilterra, fa una partita meravigliosa contro la Germania. Ma quello che io sostengo da sempre è che ancora non abbiamo visto una stagione di un giocatore da 20 gol in stagione con regolarità di comportamento. Guarda, l'ultima partita da 7, oggi sono andato a spulciare le pagelle, di Balotelli Livorno-Milan, era il 7 dicembre. 2-2, sì. Poi dopo c'è una fila di partite da 4, 4 e mezzo, 5, se vuoi te le dico, a Parma, in casa con la Lazio, la Fiorentina, in casa col Genoa, ieri sera a Napoli, poi le partite saltate. Soprattutto non è un giocatore in una squadra in difficoltà, come è stato il Milan quest'anno, no, capace di prendersi per mano. Questo, ma è quello il problema, è lui che ha detto: io sono il trascinatore del Milan, è lui che si mette sotto Infatti, quel riflettore. La vera domanda è l'Italia. La vera domanda è l'Italia. Questo si può discutere. Balotelli, perché Prandelli ha scelto Balotelli come punto di riferimento, pietra angolare sulla quale costruire la squadra? È giusto o sbagliata questa cosa? Questo è interessante, perché adesso non possa piangere, se c'ha voglia di piangere, viva Dio, non è che ha ammazzato nessuno. Non più 10 Sassari su Siena, attenzione. Ti piace il basket? Mi piace molto, più 12 adesso. Massimo D'Alecco, Massimo. Più 10. Sì. Prego. Prego, Massimo. Sì, buonasera, volevo fare anche un intervento su Balotelli. Sì. Guardi, il ragionamento che ho fatto ieri sera quando ho visto piangere, ho detto che si è reso conto delle cazzate che ha fatto in tutto questo periodo e possiamo che guardare questo lato. Sì, lo rende conto di quello che ha fatto e ricominciare con un'altra mentalità, un altro approccio al suo ruolo che dovrebbe avere nel Milan. Sì, lo dice. Possiamo anche credere anche questa è una cosa positiva. Lo dice anche Simone da Padova, scusate, ma trovo quella di ieri sera come la reazione più normale dopo tante pagliacciate. Per una volta Balotelli ha pensato ho fatto schifo e invece delle solite sbuffate si è messo a piangere. Dov'è il problema? Maurizio dalla provincia di Chieti. Maurizio. Buonasera Maurizio. Parlare di Balotelli, insomma, sono d'accordo con Pierluigi Pardo, non è un campione, ormai ha 24 anni, cioè campioni secondo me sono Marco Van Basten, Ibrahimovic, quelli che ti risolvono, risolvono i problemi anche agli allenatori. Però premesso questo, ieri sera mi è dispiaciuto notare l'atteggiamento di Seedorf. C'è un allenatore, un grande calciatore, il Milan in difesa, diciamola tutta, ha calciatori inguardabili. Allora, se ti presenti con SN e De Jong, che giocatori di insomma, e quattro là davanti che non fanno la fase difensiva, è normale poi sì, è normale che rischi, soffri, poi prendi l'imbarcata. Io credo sarebbe servita un'estate a Seedorf per costruire quel Milan che forse è in testa. E secondo me c'è un rischio, l'avevamo sottolineato quando c'era stata la sconfitta col Sassuolo, c'è un rischio sicuramente nell'accelerazione della crisi del Milan, che Allegri cacciato via a gennaio con Seedorf che arriva subito con una squadra non sua rischia di bruciarlo anche come immagine. Già un allenatore esordiente, quindi qualche credito glielo devi concedere, ma chiaramente stiamo parlando di un debuttante. E avere una squadra in questo modo, non costruita da lui, che rischia di rovinargli l'immagine proprio all'inizio, quindi questo non è semplice. Ovviamente Seedorf ha una vita davanti da allenatore, però forse sarebbe stato meglio per lui cominciare con una squadra fatta e costruita da lui. Potremmo stare qui, ho l'impressione, fino a domani mattina, però io sono molto curioso anche di sapere come va a finire la settimana dell'orgoglio interista questa sera. Senti cosa ti faccio sentire, Pier. È stata una grande settimana, Pier, per l'Inter. Tra l'altro, quando è che vai via? Noi siamo a un paio di chilometri da San Siro, tu hai la telecronaca. Sì, beh, la partita vai via fra le 6:55, vado così, ma insomma, distanza fra Radio 24 e San Siro è 6 minuti in macchina. Assolutamente. Saluto Evaristo Beccalossi, ciao Becca. Ciao, digli a Pierluigi che sto facendo io la strada, tutto bloccato. Tutto bloccato, guarda che me lo preoccupi, adesso si alza se ne va. No, sono... San Siro, i nostri tifosi, tutto è stato esaurito. 85.000. Senti, no, adesso parliamo di Inter, però dammi una sintesi definitiva su Balotelli, da fantasista, da irregolare, quale sei stato? No, non so, no, ho grande rispetto delle lacrime che ha versato e ecco, gli deve servire lui di capire che si rispetta quel momento lì, che non è bello vederlo anche piangere, che ha tutto il suo diritto, però bisognerebbe anche ricordargli quello che il calcio gli ha permesso di guadagnare alla sua giovane età. Però mi spiego meglio, quel gesto lì lo apprezziamo tutti noi, però se lo deve ricordare quando le cose vanno bene, per essere più disponibile e forse un po' più equilibrato verso gli altri. Tu ci scommetti qualcosa? Mi piace, sì o no? Non... Perché poi parliamo di Inter. Una bella sintesi, mi piace. Non lo so, perché non lo so se ce la farà, però ecco, mi auguro che quello sia un passaggio che gli possa essere un po' più disponibile con gli altri, specialmente lui che è una persona che a livello calcistico abbiamo detto tutti che è bravissimo, però fuori aveva qualche atteggiamento un po' così, che gli serva di esperienza perché è giovane, bravo e la vita va presa anche con gioia, non sempre... in un certo modo, dove verso gli altri tu che sei un simbolo devi cercare di dare. Becca, è la prima armata Brancaleone con Hernanes, che questa sera guarderemo tutti con grande attenzione, e senza Branca. Io ti faccio sentire Oriali, quando è stato? Lunedì, martedì, qui a tutti convocati, Oriali. Ma proprio per quello credo di avere fatto all'Inter, quindi ho dei crediti, probabilmente la gente si identifica in me e queste manifestazioni ovviamente di stima e di considerazione a me ovviamente fanno molto, mi ha molto piacere, però non credo di essere la panacea di tutti i mali, io credo che lì ci sia proprio da fare un lavoro. Oh, era tutta colpa di Branca, quindi da oggi le cose fileranno tutte lisce, Becca, Pier ride, eh? Credo, no, io credo di no, anche perché hai fatto parlare al mio fratellino Lena, quindi sai da che situazione. Ma torna? Torna? Non lo so. Non gli hanno telefonate, giusto, Pier? Ma che io sappia, l'ho visto, ci ho parlato l'ultima volta l'altro giorno e non so se è successo qualcosa nel frattempo. Però sentiamo Becca, poi ti dico anch'io. No, io ti dico chiaro che di parte Lena vorrei che tornasse domani mattina, perché insomma le cose che si sono fatte negli ultimi anni sono state fatte bene, ma soprattutto anche a livello a livello di movimenti, di sapersi muovere così. Questo però non vuol dire che Marco sia stato tutto negativo, sicuramente ha fatto degli errori, però io mi sentivo un po' più sicuro, anche se ero dalla parte dell'Ela, averli tutti e due in sede, perché magari si punzecchiavano e poi alla fine si riusciva a prendere i giocatori che servivano all'Inter. Quindi, però ecco, da parte dell'Ela, insomma, sono di parte e mi auguro che possa tornare, anche se secondo me c'è in atto proprio veramente una, non dico però, una rivoluzione a livello proprio societario, e ci sono i vari cicli, secondo me è giusto anche guardare in avanti, dare la possibilità magari a chi è più giovane di poter entrare, però soprattutto che si curi gli interessi dell'Inter. Sì, io ho l'impressione che Toir sia meno morbido, malleabile di quello che avevamo, esatto, anche descritto nelle prime settimane. Qua, io so come si sta muovendo sotto, senza, perché anche l'acquisto di Hernanes non era in previsione. Cioè, tutti noi sapevamo che questa squadra era, tra virgolette, da ottavo, settimo posto, però col lavoro e l'esperienza di Mazzarri si pensava di stare un po' più su. Però alla fine vedi che è costretto a parlare solo Mazzarri, poi Mazzarri parla e gli danno che non può che è presuntuoso, però la mancanza di un dirigente che in questo momento magari copra un po' quello che sta avvenendo. Ecco, un po' più di ordine, cosa che Toril stava lavorando dietro tranquillamente per mettere a posto tutto. E invece è dovuto uscire allo scoperto. Prendere Hernanes, spendere dei soldi adesso, quando invece c'è dietro anche un carico da 11 da mettere a posto. Questa sera poi ti salutiamo, conta davvero solo vincere, sì. Fa niente quello che si vede in campo. Conta vincere per stare lì nelle posizioni, perché c'è nelle prime posizioni dietro le forti, chiaramente, perché ritengo che la nostra squadra non sia all'altezza di quel gruppo di squadre lì. Però ti ripeto, la squadra va valutata per quello che è. Non credo che sia tutto negativo, perché magari, insomma, con il lavoro, con la volontà, abbiamo visto il girone d'andata che siamo riusciti a rimanere un po' più su in classifica, però i miracoli non è che non sempre avvengono. Grazie Evaristo. Ciao Becca. Buona partita, traffico. Se lei mette una mela marcia dentro lo spogliatoio, può infettare anche tutti gli altri. Balotelli è una persona che io non accetterei mai facesse parte dello spogliatoio del Milan. Tutti convocati. Ci siamo quasi, Armin. Meglio Zobel. Piangere a bordo di Aston Martin piuttosto che di Panda, ci dicono. Beh, insomma, non ci sono dubbi su questo. Non avete capito una cicoria? Balotelli ieri voleva fare un gol e dedicarlo al figlio, aveva già pronta la maglietta con la dedica, ci dice un altro. Avete notato che Balotelli non ride mai neanche quando segna? Umberto da Roma. Non sarà mai un campione. Stefano Di Bardolino. La generazione degli anni 50, un messaggio lunghissimo, che ha bruciato il talento come Maradona. Tanti fanno il paragone con Cassano, secondo me completamente diversi sono Cassano e Balotelli dal punto di vista proprio delle caratteristiche umane. Posso rispondere a Carlo? Accanirsi su Balotelli denota tutto il suo spessore da giornalista da quattro soldi, ma io non mi sto accanendo su Balotelli. Dico che se tu arrivi lì in quel momento e poi hai il crollo emotivo e piangi, la responsabilità è tua, che vivi una settimana sotto i riflettori, e sei tu a metterti sotto i riflettori, e succede così da tempo, è successo così ovunque. Anna da Milano, Anna. Sì, buonasera. Aspetta, volevo intervenire su Balotelli. Sì. Allora, da mamma mi dispiace, perché a un certo punto l'avete sempre con lui. Allora, se fa il pazzo perché fa il pazzo, se piange perché piange, allora l'avete costruito voi. Premetto che io non sono né milanista né interista, tengo il Bologna, quindi niente di che. Però io dico solo, l'avete costruito voi questo ragazzo, se piange perché piange, lasciatelo stare adesso, vogliamo vedere se magari lasciandolo stare un po', magari si faccia giocare, è quello che volevo dire, solo sì, quello. Discorso ripetuto quante volte, Pierre, negli ultimi tre anni, quando è andato con Mancini, quando è arrivato al Milan, perché era al Milan, quante volte l'abbiamo fatto questo discorso? Io solo una cosa, io sono d'accordo su tutto con la nostra amica, solo su una cosa, l'avete costruito voi, non è che c'è una riunione di tutti i direttori di giornali che vanno lì, dice che cosa ci possiamo inventare per vendere più copie, cioè è un dato di fatto, e vi assicuro che questi... Questa mezz'ora di radio su Balotelli, con la pioggia di telefonate e di messaggi che sta arrivando, è un'ulteriore dimostrazione di questo. Cioè, io vorrei parlare di tanti altri argomenti, dal buco dell'ozono a Inter Sassuolo di stasera, all'Arsenal che è crollato ieri. Ci sono tante cose nella vita che mi appassionano più di questo tema qui, però vi assicuro che questo tema è un tema che interessa, poi giusto o sbagliato che sia, però è così, insomma. Angelo da Magenta, Angelo, buonasera. Sì, ciao a tutti, buonasera, grazie di avermi convocato. Grazie a te. Un saluto al dottorissimo di Ponte Nuovo di Magenta, sì. E dopodiché la mia, diciamo, io il dottorissimo di Ponte Nuovo sarà uno che fa il dottore nella vita, fa il medico, che cos'è, un gastroenterologo, non vogliamo sapere. Se è un gastroenterologo, no, gli chiediamo come ha fatto Cacà a perdere 3 kg in 2 giorni, che ieri è stato tema di dibattito a Napoli. Prego però, Angelo. No, grazie. Diciamo che vabbè, io sono milanista, però vabbè, io ho dichiarato che telefonavo per le Olimpiadi invernali, sì. E quindi rimango su questo. Allora, io sono un grosso tifoso degli azzurri, soprattutto sono un appassionato di sci alpino. Sono molto contento della medaglia d'argento con cui abbiamo aperto le Olimpiadi stamattina. Io credo che supereremo il bottino di Vancouver, che erano 5 medaglie. Posso fare un pronostico intorno a 10 medaglie. 10 medaglie? 10 medaglie, sì. Volevo sarebbe capire... un trionfo, Angelo. Se magari, cioè, qual è il vostro pensiero? Qual sì, è la vostra sa che cosa facciamo? Facciamo rispondere a Cristian Ghedina. Hai 5 minuti prima di andare a San Siro. Dai, Cristian, ciao, direttamente da Sochi. Ciao a tutti, buonasera, sì, insomma, 3 ore non c'è tanta differenza, io sono qua a Sochi adesso. Sei dopo cena, no? Hai cenato? Sì, dopo cena. Ho appena finito la mia cenetta, ho mangiato il shrimp. E adesso mi sto guardando che c'è adesso la possibilità di fare un'altra medaglia, perché c'è lo svizzino. Sì, lo stiamo aspettando. Lo racconteremo anche in diretta. Cristian, io ho giocato col simulatore sciistico, ma quella di Sochi, con tutto il rispetto, non mi sembra proprio la pista più... non so, più splendente, più difficile della discesa libera mondiale rispetto a Wengen, rispetto a Kitzbühel, o sbaglio? Ma no, diciamo che difficile come pista è abbastanza difficile, impegnativa fisicamente, perché sei abbastanza quasi sempre sul spicco, sempre in curva, e anche da metà in giù era abbastanza dura e ghiacciata, in più sbatteva, oggi gli atleti arrivavano belli stanchi, però diciamo che non è, secondo me, io ho anche un po' criticato, a differenza magari di tanti, che è una bella pista da vedere, da guardare per il pubblico, però è un po' poco discesa. Adesso si tende sempre a fare queste discese sempre più, con più curve che girano, c'è sempre più spigoli, c'è poca scorrevolezza, pochi tratti da salire di sci, e quello a me dispiace, perché per me discesa libera, proprio il nome dà un po' fastidio, perché libertà di scelta di traiettorie, sì, sulla pista, insomma. Dà un po' fastidio per chi come te, per la tua generazione, ma anche quelle prima, ha costruito la leggenda della discesa libera su tracciati diversi. Io ho sentito oggi da alcuni commentatori dire che queste sono le libere del futuro, d'ora in poi dovremo abituarci a vederle così, non come Kitzbühel, non come Bormio, come Wengen, come tante altre. Sì, hai certamente ragione, difatti dicono questo, un po' leggevo anche un po' i giornali, e in effetti, diciamo, la discesa libera è proprio nata perché si partiva da in cima a un monte e si arrivava giù in fondo, e chi non c'era pista, non c'era cosa, si poteva scegliere la traiettoria che ci voleva, chi arrivava prima vinceva, e difatti era una discesa libera. Però in effetti adesso non è più discesa, poi man mano col passare degli anni hanno iniziato a mettere delle porte, diciamo, direzionali, per avere dei punti di riferimento. Hanno fatto dei super giganti veloci, perché oggi si andava anche a oltre 130. Con questo non stiamo criticando i Neurofer, Cristian, perché altrimenti passiamo per quelli che dicono cose che non stanno né in cielo né in terra. Cosa si prova a perdere per 6 centesimi un oro, una gara, insomma, ma magari a conquistare un argento per 4, perché questo è successo a Ghedin, a Neurofer? No, difatti, ma io lo so, io ho visto che era molto entusiasta lui della sua gara, quindi io penso che sia contento di aver conquistato un argento e non di aver perso l'oro. Lui sapeva, aveva la potenzialità, la pista gli piaceva, quindi questo è già un buon punto di partenza. Si parte con una marcia in più quando hai una pista che è adatta alle tue caratteristiche, perché rispecchia un po' le caratteristiche di Neurofer. È partito motivato, deciso, ha provato nelle varie prove, una prova l'ha tirata, una ha provato dei pezzi, è andato più tranquillo, e nell'altra ha provato altri pezzi e nell'altra parte è andato tranquillo, e quindi è riuscito a mettere insieme una gran prova. Ha messo tutto insieme nel momento giusto. Cristian, ti devo salutare, tra l'altro Armin manca ancora un po', mi sa che lo sentiremo nel notiziario. Grazie a Cristian Ghedina. Grazie mille, ciao a tutti. Ciao. Grazie Cristian Ghedina. Pier, lascio anche te, anzi ci lasciamo, appuntamento domani. Domani 14.05 con Carlo Genta. 14.05, poi vabbè, ti raga domani sera, insomma andiamo avanti, sarà una settimana intensa, molto intensa. Ti sottolineo che settimana scorsa ho azzeccato il pronostico esatto di Juventus Inter, 3-1, quindi non chiedo il pronostico di Inter Sassuolo. Inter Sassuolo te lo dico io. Vai. 2-1 2-1 per l'Inter. Un saluto a Giorgio De Luca, autore di questo programma, Pietro Lacorte, Filippo Aureggi in regia. Un saluto anche da Giovanni Capuano. Ci sentiamo domenica prossima dalle 17:00.